Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Questa è una storia del passato che condiziona ancora il presente. Questa è la storia di Misha Seifert, nazista, caporale dell'SS, torturatore, responsabile degli eccidi nei campi di Fossoli e Bolzano durante la Seconda Guerra Mondiale. Mikhail Seifert nasce a Landau, Ucraina, il 16 marzo 1924. Viene chiamato il boia di Bolzano. Centinaia di testimonianze confermano che è lui, l'ucraino Misha, l'uomo che organizza le sedute di tortura dei prigionieri politici nel lager di Bolzano e in quello di Fossoli. Il 24 novembre 2000, Seifert viene condannato all'ergastolo dal Tribunale Militare di Verona. È accusato di aver ucciso almeno 18 prigionieri. Viene riconosciuto colpevole di aver torturato, seviziato e ucciso, insieme a Otto Stein. Così scrivono i giudici di Verona nella sentenza di primo grado. Le modalità delle azioni violente ascrittegli denotano mancanza assoluta di rispetto non soltanto nei confronti dei soggetti passivi, ma della vita e dell'umanità in sé, considerate come valori collocati alla base della civiltà moderna, in contrapposizione alla più cupa barbarie dei tempi antichi. Le condotte in contestazione risultano aggravate in parte dalla forma più intensa di dolo, quello di premeditazione, e tutte dall'uso di atroci sevizie. La capacità a delinquere dimostrata dal reo, nonostante la giovane età all'epoca dei fatti, può essere definita soltanto con l'aggettivo impressionante. Dopo i fatti, malgrado il lungo tempo percorso, mai l'accusato ha manifestato il benché minimo interesse per le vittime delle sue scellerate azioni. Così invece si esprimono i giudici della Corte di Cassazione. Sui fatti accaduti in un campo di concentramento organizzato militarmente e sorvegliato prevalentemente da militari, la connessione tra lo stato di guerra e la violenza esercitata dall'imputato nei confronti delle persone in esso ristrette si ricava dal diretto collegamento con l'emanazione di ben precisi ordini militari, attinenti in modo specifico ad azioni a pieno titolo inserite nel contesto bellico nel quale Seifert agiva ed operava, sicché i crimini da lui commessi non possono che essere qualificati come reati commessi da militari nemici contro le leggi e gli usi della guerra, o comunque come reati commessi per cause non estranee alla guerra da militari contro privati nemici. Marisa Scala è una delle persone scampate alle violenze di Misha Seifert. Questa è la sua testimonianza ad Alessandro Milan. Bene, io ero già stata arrestata due volte a Torino, una volta liberata, scambiata con i tedeschi presi dai partigiani, la seconda volta sono riuscita a scappare, non so neanche io per come e per quando, l'incommensurabile che c'è su ognuno di noi, insomma. Ripresa dalle brigate nere consegnate ai tedeschi, fui mandata con un convoglio di 40 uomini da Torino, l'unica donna ero lì ed ero ammanettata. Siamo arrivati in San Vittore a Milano, abbiamo raccolto altri detenuti che erano in San Vittore e con i quali abbiamo fatto il viaggio verso Bolzano, viaggiando tutta la notte e arrivando verso il mattino. Che posto era il lager di Bolzano? Era un posto delizioso, in mezzo a prati, a campi, a frutteti più che altro. C'erano frutteti da una parte e dall'altra e si vedeva il castello dietro, si vedeva dal campo. E siamo entrati attraverso un arco, un cancello che c'era, dopo parecchio, per la precisione dei tedeschi, per la loro tremenda precisione, ognuno di noi aveva i suoi documenti e io nei miei documenti probabilmente c'era la storia, purtroppo, della mia militanza, antifascista. Lei all'interno di questo campo conobbe anche Mikhail Seifert. Come può un uomo, e io so che è stato così perché l'ho visto, l'ho subito, come può una belva umana, parlando di belve umane non è ancora un termine esatto per descrivere perché ci vorrebbe qualcosa di più orrendo che non trovo, come può una belva umana a 20 anni fare quello che ha fatto, poi dare una svolta alla sua vita, diventare un cittadino, sposarsi, mettere al mondo un figlio, andare in chiesa tutte le domeniche? Io mi chiedo, di che abisso è fatto questo uomo? Che cos'ha dentro di sé questo uomo? Perché dopo aver strupato, ammazzato una bambina di 16 anni, ammazzato questo giovane che ho visto io ammazzare, e torturati, perché ammazzare è niente, ammazzare si ammazza, potrei farlo anche io domani in un momento di rabbia, ma torturare, strupare, cose tremende, tremende hanno fatto. Diventare poi gente normale. Perché queste cose ha fatto Michael Seifert? Queste cose ha fatto Michael Seifert. Nessuno poteva neanche guardarlo negli occhi. Ma io so che Misha e Otto, erano due, Misha e Otto li vedevamo passare allora che andavano alla mensa. E noi vedevamo questi due con gli stivali, sa che loro camminavano rombando, ecco, e andavano a mangiare. Nel campo, prima che entrasse nelle celle, c'erano Radio Bugliolo. Sa che cos'è Radio Bugliolo? Il Bugliolo è quello dove si fanno i propri bisogni, no? Perché nel campo circolavano delle voci, sentivano di notte delle cose strane, sentivano, però nessuno osava parlare. Quando io sono entrata nelle celle, ho capito che quelle voci corrispondevano a verità, perché già dalla prima sera ho cominciato a sentire dei vari rumori, dei lamenti, delle voci concitate, quindi in tedesco, quindi erano Misha e Otto che parlavano, voci anche femminili, ho sentito un urlo, ho sentito delle imprecazioni, cioè se lei è in una camera e vicino c'è uno che viene picchiato, torturato l'altro, lei sente tutto, insomma, non c'è bisogno di vedere, no? Ecco, sente, ai, basta, mamma, ai, no, basta, poi urli tremendi, e loro che ridevano come dei pazzi ridevano. Non solo, io di questi due ho dei ricordi, di Otto gli occhi da vipera. Sono quegli occhietti che la vipera fissa prima di colpire, eccetera. Sono tremendi, tremendi. Invece Misha era un giovialone, io lo paragonavo a Olio, perché lo vedevo così, robusto, pacioccone, bianco e rosa, eccetera. Un'aria allegrotta, direi. Però le voci erano stranissime. Loro erano tenori, soprano, baritono, basso, erano tutto, erano. Perché passavano dalla risata alla sferzata in tedesco tipo Sizer, salvo poi a ridacchiare fra di loro e a continuare qualche loro conversazione. Una sera Otto e Misha uccisero una persona e lei ne fu testimone. Sono arrivati, si sentivano nel corridoio, io avevo identificato gli stivali, perché uno camminava in un modo e l'uno in un altro. E quella sera ho sentito questi passi avvicinarsi alla mia cella, perché io ero all'ultima cella in fondo a sinistra, e si sono fermati davanti a questa cella. E ho sentito tirare sto catenaccio. E mi sono appoggiata alla porta, ho visto che la porta si muoveva. Terrorizzata, ho tenuto la porta, e lì allora ho visto questi due che hanno chiamato questo ragazzo. Poi in un certo momento ho visto, hanno cambiato tono di voce, e uno dei due ha messo la mano dietro la nuca di questo ragazzo per tenerlo fermo, e l'altro con le dita le ha infilate negli occhi, schiacciava gli occhi, capisce? E il ragazzo ha cominciato a dire no, no, basta, ai, ai, male, eccetera, o urlava, più premeva e più urlava, insomma, e ridevano, ma non la risata allegra, delle risate da pazzi, io non lo so, ecco, io non so, è una forza bruta che l'uomo ha dentro di sé e che scatena senza saperlo, perché l'uomo è veramente, è questo sconosciuto, secondo me. Ognuno di noi ha delle cose meravigliose e ha degli abissi. E che cos'è che spinge un uomo a un divertimento simile? C'è la testimonianza di quella piccola ebrea di, non so se aveva 14, 15, 16 anni, struppata, le hanno fatti tutti i colori. Quando l'hanno messa nel sacco nero era come se le bambole rotte, no? Era tutta pelle e ossa, non so se pesava neanche 30 kg. Le hanno fatto, le hanno torturata, le hanno fatto di tutto prima di farla morire. Ecco. Michael Seifert nel 2000 è stato scovato appunto a Vancouver e lui non ha mai parlato, però chi lo conosce dice è un uomo pio, tutti i giorni è andato a messa negli ultimi 50 anni, è un lavoratore, un'onesta persona. Io ho provato una cosa sola e l'ho detto. Io ho provato la soddisfazione che la moglie creda o non creda, ma sappia che ha sposato. Che il figlio creda o non creda, sappia chi è suo padre. Perché il figlio dirà bene qualcosa c'è sotto. La mia soddisfazione è che sappiano chi era Seifer. Ci credono, guardi, non vogliono crederci. Ma da quello che è uscito fuori, in fondo a loro, il dubbio deve esserci. Simon Wiesenthal, che è scomparso, il famoso cacciatore di nazisti, ha sempre detto: ho fatto tutto per giustizia, non per vendetta. Io pure. Guardate, lasciatelo lì in Canada. Toglieteli degli agi, se ne ha avuti ad oltranza, toglieteli, perché insomma non è neanche giusto dover ingrassare un porco, quindi... Però tenetevelo pure lì, non ho nessuna voglia che venga in Italia a vederlo, la vendetta, no, alle reste domiciliari, che si coltivi le sue roselline che ha, eccetera, però la vergogna di essere su tutti i giornali, di essere stato una belva umana, quella la sente lui, la sente, e questa è la mia vendetta, capisce? Se vendetta si può parlare. Ma secondo lei lui la sente questa vergogna? Io penso di sì. Io penso che qualcosa dentro abbia, perché lui ha fatto. Si ricordi bene che lui ha fatto assieme con l'amico. Quando si fanno certe cose, guardi, si dimenticano, si cancellano, ma poi un po' alla volta tornano a galla. Dopo la pausa, Giallo e Nero torna a raccontare le storie di Misha Seifert. Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Oggi Misha Seifert, il boia di Bolzano, ha 83 anni. È residente dal 1951 a Vancouver, in Canada, al numero 5471 di Commerce Street. Della condanna all'ergastolo, Seifert non ha scontato neppure un giorno. E tutto questo è avvenuto nonostante le ripetute richieste italiane al Canada di estradarlo. Ad oggi le pratiche burocratiche restano comunque ferme. La collega Irene Zerbini lavora a Radio 1 Toronto e ha realizzato numerosi speciali per sensibilizzare l'opinione pubblica canadese sul caso Seifert. Seifert altro non è che il giovanissimo Misha. Sanguinario Misha aveva 20 anni, con l'inseparabile Otto aveva un amico irrintracciabile oggi per la giustizia italiana, chissà, forse uno dei nostri vicini di casa, e seminò il terrore tra i deportati. Infatti amava, come abbiamo spiegato, torturare di persona. Tutte le testimonianze dei superstiti sono concordi nell'attribuire a questa coppia, che sembrava anche più giovane dei loro 20 anni, particolari efferatezza e sadismo nelle violenze inflitte ai deportati, in particolare ai detenuti delle celle, cioè la prigione interna di Bolzano, contro i quali si accanivano quasi sempre in coppia, senza alcun motivo. Berto Perotti è uno dei testimoni al processo, ha riferito di 14 assassini commessi sempre nella prigione del campo, dei quali fummo testimoni uno per uno. Gabriella Riva è un'insegnante del liceo di Bergamo. È parente di una delle vittime di Seifert, il boia di Bolzano. Si chiamava Bortolo, fratello di mia mamma. Io ovviamente non l'ho conosciuto, sono nata alcuni anni dopo, sono ancora abbastanza giovane. Però le dirò che allora, i miei zii e la nonna fino agli anni 60 non hanno saputo niente di questo ragazzo, cioè il governo italiano non ha fatto sapere niente. Poi hanno saputo che era morto a Bolzano, però le particolarità, i particolari di come era stato ucciso siamo venuti a sapere solo dopo il processo del 2000 a Verona di Seifer, appunto. E, tuttavia il ricordo di questo zio nella nostra famiglia è sempre stato molto vivo. Mia madre, mi ricordo che sin da piccoli tutte le sere quando ci metteva a letto il pensiero per lo zio, per questo zio giovane sfortunato, è sempre stato vivo, era un obbligo quasi, diciamo, per cui la memoria non si è mai cancellata, che è poi la cosa più importante, che bisogna tenere viva non solo nei parenti ma anche nelle giovani generazioni. Io come insegnante mi prodigo anche per questo motivo, in modo che rimanga vivo Io ricordo la memoria di queste feratezze perché non debbano più compiersi. Bottolo Pezzuti è dunque una delle vittime di Misha Seifert. La nipote, Gabriella Riva, è una delle fondatrici di un comitato di familiari delle vittime che chiede al Canada di avviare l'immediata estradizione del criminale nazista. Così racconta a Irene Zerbini come Bottolo Pezzuti venne catturato dai suoi sicari. Non era senz'altro fascista, però vista la giovane età che avesse già un'idea politica così ben definita, non credo, non mi risulta. Ecco, il ragazzo faceva il manovale, era di sabato, c'era la vigilia di Natale, è andato al cinematografo, era il divertimento più, diciamo, alla moda per quel tempo, per cui come fanno anche i ragazzi d'oggi, per un divertimento così sciccoso, no, si può anche sacrificare altro. Per cui è andato al cinematografo e per diciamo ripararsi dal freddo aveva al collo un foulard con una colorazione rossa, aveva del rosso tra le diciamo colorazioni questo foulard, e all'uscita probabilmente avevano bisogno di questi fascisti di versare la loro rabbia contro qualcuno, e il primo che hanno preso gli hanno intimato di togliere il foulard. Lui, rivendicando la sua giovane età, ha chiesto perché mi chiedete questo, non dobbiamo darti spiegazioni, l'hanno portato via e non si è più saputo niente praticamente, Mia mamma mi ricordo che mi diceva che non so con quale modo, con quale metodo le veniva fatto recapitare a volte su una carta da pacco delle missive di questo suo fratello, di questo Bortolo, che chiedeva, aveva fame, voleva mangiare, e lei faceva recapitare probabilmente tramite la milizia, perché non sapevano dove era finito delle gallette, cioè del pane raffermo, poca roba, perché insomma nel 44-45 era tutto razionato, per cui ci si privava del boccone per vedere un po' di andare incontro alle sue necessità. Poi che ho saputo io, lui è stato appunto dal processo, abbiamo saputo che nel campo di concentramento di Bolzano, lui poveretto probabilmente ha tentato di fuggire perché non ce la faceva più e è stato preso, è stato appunto la notte di Pasqua tra il 30 marzo e il 1 aprile, è stato torturato e la tortura purtroppo ci hanno fornito i particolari, la tortura è consistita oltre che nel pestaggio, bruciature e sigarette, gli hanno squarciato il ventre per finirlo, insomma, lui era ancora vivo, con un pugnale gli hanno aperto il ventre e l'hanno ammazzato in questo modo, insomma, ecco. I familiari delle vittime chiedono verità e giustizia attraverso una petizione. Sono tutte forme di pressione sulle autorità canadesi che poco o nulla hanno fatto per consegnare all'Italia il boia di Bolzano Seifert. Noi qui in Italia rimaniamo sbigottiti del fatto che appunto questa persona non venga estradata in Italia, perché vede anche la raccolta di firme che abbiamo promosso io, il comitato Bortolo Pezzuti, di cui io sono presidente, insomma. Cioè non è tanto per una sete di vendetta, ma quanto per chiedere giustizia. E penso che diffonderemo questa petizione non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale, perché l'AMPI, le AMPI, le sezioni dell'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani, è molto sensibile a queste situazioni, per cui penso che una mano ce la daranno senz'altro per rendere più corposa la nostra petizione, ecco. Più che altro per avere giustizia, visto che in Italia questo signore è stato condannato all'ergastolo, non ci sembra giusto che la cosa rimanga così sospesa, non venga data giustizia a queste povere vittime che ormai in vita non possono più tornare, però caspita, hanno subito. Non sappiamo se un giorno il Canada restituirà all'Italia uno dei peggiori criminali nazisti ancora viventi. Sappiamo però che in un mondo non più diviso da muri, la mancata estradizione di Seifert rappresenta una delle peggiori offese alla memoria del nostro paese, che non intende dimenticare mai. giallo e nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.